13 luglio 16:50. Mi dispiace. So che non significa molto ormai, ma mi dispiace. Ci ho provato. Penso che siate tutti d'accordo che ci ho provato. Essere sincero. Essere forte. Essere gentile. Ad amare. Essere onesto. Non ce l'ho fatta. E questo voi lo sapete. Ognuno per la sua esperienza. E mi dispiace. Tutto è perduto ormai, tranne l'anima e il corpo o quello che ne rimane. E provviste per mezza giornata. Non ho scuse, lo so, adesso lo so. Quello che non so è perché ci sia voluto tanto per ammetterlo, ma l'ho fatto. Ci ho provato fino alla fine. Non so quanto sia servito, ma so di averlo fatto. Avrei voluto dare di più a tutti voi. Mi mancherete. Scusatemi. Mi sento fossilizzato. Mi sento come se fossilizzato. Ogni anno cambio come calendario. Voi non avete paura come un pregario. Su questo beat sono un sicario. Contro i pezzi di merda sono zario. Mentre la scrittura mi insegna cose nuove, la struttura della mente resta altrove. Supero la soglia del dolore ogni volta, aspettando la svolta con la mente colta. Di pensieri, di pozioni, per scaccia pensieri. Di averi, di passioni, di dolori, siamo cavalieri. Scrivo da solo Caesar, con nessuno intorno. Notturno, diurno, aspettando il giorno. Vi odio perché siete uguali, copiando l'ipocrisia. Pensando di essere speciali con una fotografia. Odio voi e chi non vi segna rispetto. Perché dalle rose che nasce l'affetto. Le ruote seguono a portarvi i posti migliori. Non alzando categorie tra migliori e peggiori. Fate bibi, non copiate gli adulti. Rubi per poi diventarlo senza attributi. Resterete sui cellulari ipnotizzati. Sui social affamati della vita cloni clonati. Vi mangio, siete passa il succo. Scrivete grandi frasi, ma qual è il vostro succo? Le frasi non si copiano, si mettono in atto. Per essere unici come Oliver Hattori.